E riparte la nostra sigla, come ben sapete, tre appuntamenti tre volte con George Benson on Broadway, la via del teatro, e quindi leggermente in ritardo, sperando che la nostra ospite co-protagonista per una serie di spettacoli all'interno di un progetto di cui parleremo e di cui ha già parlato Sergio, perché l'appuntamento è partito dal 31 agosto. Questa sera e domani sera ci saranno gli ultimi due incontri e ci teneva a sottolinearli anche al Breakfast Club in scena. Intanto do il buongiorno a Francesca Mazza, se è rimasta in diretta. Buongiorno Francesca. Buongiorno a voi, buongiorno grazie a tutti. Scusa per l'attesa e il leggero ritardo. Allora, siamo a Villa Salina, Villa Malpighi, quando a Castelmaggiore ritroviamo un percorso vicino alla nostra città nell'itinerante spettacolo Tutto il mondo è un teatro, e quindi, visto che è già iniziato e visto che insomma anche al Breakfast Club ne vogliamo portare contenuto, di cosa si tratta, Francesca? Dunque, intanto Tutto il mondo è teatro è il titolo del nostro progetto. Nello specifico lo spettacolo si intitola 10. Accuratamente. Allora, il 10 è dedicato al fatto che è la decima edizione di questo progetto, quindi siamo già anziani da un punto di vista di età. E accuratamente ha a che vedere con il tema della cura, che ognuno degli attori che partecipano a questo progetto ha declinato secondo un punto di vista diverso. Ovviamente la parola cura è una parola che evoca molti significati, e quindi ognuno di noi ha scelto poi dei testi che sono al centro della propria performance, che hanno a che vedere con il tema della cura. Ad esempio, Angela Amalfitano ha scelto La Ciociara di Moravia, forse in tanti ricorderanno il film di De Sica, e proprio in particolare il frammento, diciamo, tragico della scena di violenza, dove poi appunto vittime di questa violenza sono una madre e una figlia, e quindi c'è una madre che dopo questa violenza si prende cura della figlia. Questo per fare un esempio, insomma. Però ognuno di noi, come ripeto, l'ha declinato in modo diverso. La parola poi noi l'abbiamo scelta soprattutto nel senso di avere cura, di fare le cose con cura. Sì. In un momento in cui siamo tutti un po' sottoposti appunto a una fretta, a una velocità, quindi il tempo della cura, il tempo di fare le cose con cura è sempre più difficile da trovare, quindi voleva essere anche un richiamo a quello. Allora, tra i protagonisti, già intervistata da Sergio, Angela Amalfitano, aggiungo Gino Paccagnella, Oscar De Summa, Fabrizio Croci, Maurizio Cardillo, Marco Manchisi, e intanto con Francesca Mazza ci avviciniamo ai appuntamenti due per questa sera. E no, in verità gli appuntamenti sono diventati tre. Ah, ok, non lo sapevo. Sì, ma certo, ma neanche noi lo sapevamo. Ah, okay, perché, purtroppo ieri sera, come tutti quelli che vivono in questa zona sanno, c'è stato questo terribile temporale e abbiamo dovuto rinunciare alla replica. Per cui, in sostituzione della replica di ieri sera, ne faremo una anche sabato pomeriggio alle 18. Quindi chi avesse voglia di venire a fare una passeggiata nel parco di Villa Salina ad ascoltare delle parole belle e preziose, sabato alle 18 ci sarà un'ulteriore replica. Okay. Bene, quindi è stato importante anche parlarne stamattina per questo cambiamento, certo, di data, certo, perché in effetti sì, pensavo ieri sera che c'era un po' di paciugo per terra, no? Mamma mia, sì, ecco. Sì. Volevo dire, la dinamica di questo Tutto il mondo è un teatro, che è il progetto contenitore all'interno del quale quest'anno c'è 10 punti accuratamente, si tratta di una sorta di ritiro tra artisti, no? Che annualmente, sì, fate, ecco. Esatto, sì, sì, ci prendiamo, diciamo, il comune di Castelmaggiore, che appunto è proprietario della villa, ci concede questo tempo, quindi noi in genere in due settimane ci ritiriamo in questa villa, che è una villa del Settecento, molto bella, con questo parco bellissimo, che tra l'altro contiene credo la quercia più grande della provincia, insomma, no, forse addirittura dell'Emilia Romagna, ha questa quercia secolare magnifica, e noi ci ritiriamo e appunto lavoriamo insieme in modo anomalo, perché normalmente gli attori lavorano sotto la guida di un regista, mentre invece noi in questo caso non abbiamo regia, lavoriamo insieme, ci diamo consigli rispetto al lavoro dei colleghi. Quindi è un modo anche di recuperare la propria autorialità. Normalmente si è diretti da qualcun altro, in questo caso ci assumiamo noi la responsabilità della direzione dal punto di vista della regia, e ovviamente anche dal punto di vista della drammaturgia, la scelta dei testi e come metterli in scena. Ecco, appunto, a proposito di come metterli in scena, magari dopo lo stacco musicale riprendiamo la conversazione con Francesca Mazza. Prima però mi dichiaro innocente per questo involontario refuso sulla cronologia degli spettacoli. Ah no, ma causa maltempo. Sì, è successo tutto ieri sera, ecco. Ci puoi dire allora, anzi ribadire, il prossimo appuntamento e quelli successivi? Il prossimo appuntamento è stasera alle 20. Okay. E temo che sia già tutto sold out questa sera, mentre invece appunto per recuperare la replica mancata di ieri ci sarà una replica in più sabato alle 18 e poi sarà di nuovo replicato sabato alle 21. Bene, grazie, a tra poco. Grazie. Eyelashes are coming and the cards say. Elastica di Bobby Hughes Combination, che ci fa da stacco musicale per il progetto Tutto il mondo è un teatro, di ritorno a Villa Salina Malpighi, progetto itinerante dell'associazione Tra un atto e l'altro, con lo spettacolo 10 punto accuratamente. Siamo in diretta telefonica con Francesca Mazza, ci sei? Ecco, bene, allora dopo questa brevissima interruzione sonora continuiamo con, dopo aver dato informazioni anche di recupero per il maltempo di ieri sera, diamo invece informazione senza svelare troppo su come sarà strutturato, perché vedo che non siete in pochissimi, a far parte di questo progetto, quindi ci sarà una struttura particolare. Ci puoi dire qualcosa di più, Francesca? Sì, come già tu anticipavi, è itinerante, quindi si svolge all'interno del parco della villa, dove ognuno degli attori ha scelto una postazione, e dentro questa postazione così avviene, si può vedere ed ascoltare il testo che gli attori hanno scelto. Quindi è un percorso che noi invitiamo a fare in silenzio, anche tra una tappa e l'altra. Chiediamo appunto di restare in silenzio al pubblico, perché è un po' il concetto della suite musicale, no? Anche se i pezzi sono diversi, in realtà è giusto in qualche modo goderli e che il pubblico crei un proprio legame tra un pezzo e l'altro, e poi si conclude con una scena che invece è corale e che ci riporta, per non svelare troppo, così, al piacere e alla cura che c'è nello stare insieme. So che non vuoi svelare troppo, ma so anche che Angela appunto mi aveva detto che recitate in coppia. Sì, è vero, in due pezzi ci sono, diciamo, due di questi pezzi sono recitati in coppia. Il primo in particolare siamo Fabrizio Croci ed io, e il secondo sono Marco Manchisi e Cristina Carbone. Bene, io personalmente verrò sicuramente a vedere uno dei due spettacoli di sabato, e stavo pensando che questo tema della cura sta prendendo moltissimo piede negli ultimi 10 anni più o meno, evidentemente dalla canzone di Battiato in poi, insomma, che dice avrò cura di te, però in effetti si parla spesso di questo, anche Mariangela Gualtieri, la poetessa, al tempo del Covid scrisse questo ti dovevo dire, che ci dovevamo fermare, cioè il senso di l'esigenza di una sosta, di una pausa, di fermarsi, di prendersi appunto cura di se stessi e reciprocamente dell'altro, è una cosa che sta diventando un'esigenza sempre più pesante. Assolutamente sì, cura dell'ambiente, cura degli oggetti, del non buttare via. Non so, in questo periodo abbiamo appunto, prima di arrivare alla scelta definitiva, abbiamo veramente preso in considerazione tutta una serie di atti di cura che poi dopo nello spettacolo non ci sono, ma insomma è questo anche il modo attraverso cui poi si arriva alla scelta finale. Appunto la cura delle persone, la cura degli oggetti, la cura, ripeto, la cura dell'ambiente, la cura delle parole che usiamo. Certo, che volgarizzando il concetto è l'antico fare le cose per bene. Sì. Avere cura. Avere cura, appunto, però ci vuole appunto tempo e non essere in continuazione distratti, cioè sollecitati da altre pressioni che arrivano spesso tutte contemporaneamente, e quindi non si riesce a dare, a mettere il cosiddetto focus sulla cosa che stai facendo. Pensa a una parola così breve, quanti significati ha? Infatti. Ci vuole un altro spettacolo, Francesca, allora. Quindi... perché no? Va bene. Mi raccomando, al lavoro. Intanto l'appuntamento a Villa Salina Malpighi, il progetto itinerante tra un atto e l'altro dell'associazione che ho appena citato, lo spettacolo I 10 punto accuratamente. Tu tra l'altro ne hai riportato anche un articolo sul sito, mi pare, www.radiocittapubblico.it. Sì, certo. Quindi anche con la nostra redazione avrete possibilità di informazione, non solo in frequenza. Senti se ti piace come ho scritto: l'arte dell'attenzione sul palcoscenico di Villa Salina. Ah, ma sei un poeta! Siamo a livelli veramente. Grazie. Ma quello è quello. Grazie Francesca, una grazie buona a voi. Giornata. Grazie presto. Francesca, ciao. Buona giornata, grazie. Ciao. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing evermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sotto un cielo apparentemente bigio, un timido sole sta cercando di prendere posizione sopra la nostra città in questa vigilia di weekend, venerdì 6 settembre alle ore 8:28. È la prima volta che senti un timido sole, immagino, nelle mie prese. No, non è la prima volta, ma è la prima volta che sento sotto un cielo apparentemente bigio. Sì, perché è così, però dietro c'è questo sole che cerca di, sì, è vero, come sotto di scardinare il bigio. L'aspetto plumbeo. Sì. The talk and the smoke, I'm good for a laugh. Questa è una raccolta di song, appunto di canzoni, con chiaro riferimento a un jazz assolutamente mainstream, ma allo stesso modo molto colto e forbito. Lei, Anita O'Day, abbiamo ascoltato Fly Me to the Moon, che è stata molto di tuo gradimento. Moltissimo. Ogni volta che tu mi dai appoggio musicale, guarda Sergio, conoscendo il tuo talento sia come interprete, compositore, per me veramente è una soddisfazione enorme. E per i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, ancora un po' la voce di Anita O'Day. Andiamo in pubblicità e poi ci spostiamo verso Ravenna per una nuova rassegna di danza con la curatela di Ammutinamenti. A tra poco. Games we used to play while the rounds were sung. When the world was young, wherever I go, they mention my name, and that in itself is some sort of fame. Come by for a drink, we're having a game. Wherever I go, I'm glad that I came. The talk is quite gay, the company fine. There's laughter and light and glamour and wine, and handsome young men, and the sum of them mine. But often my eyes see a different shine.